Andiamo in provincia di Taranto da Pietro. Buonasera. Sì, buonasera. Pietro, dica. Mi cogli mentre sto facendo un po' di maratona. Come maratona? Sta correndo? Io la sento ogni sera. Non correndo, no, ma sai, il passo veloce. Non ci facciamo un'oretta e mezza in mia moglie così, qua bene, per i campi. E che avete? La radiolina? Sì, abbiamo il telefonino con la radiolina. Anch'io faccio così, Pietro, quando corro. Sì. Purtroppo non posso correre purtroppo, a quest'ora. Scusate. Purtroppo... Non quanti chilometri ha, Pietro, quanti chilometri ha fatto lei oggi? Stasera? Stasera quanti chilometri ha fatto? Ne facciamo una decina all'incirca. Bene, facciamo bene. Un'ora, un'ora e mezza. Molto bene. Dipende dall'orario. In Alessandro, pure a te farebbe bene, mi sa. Sì, ma io comunque, sai che sono cosa che aspetta, Pietro, un attimo. Sì. Alessandro, scusa, che stavi dicendo? Che sono dimagrito 15 kg perché la prova costume incombe. Ah, sei, hai fatto a poco. Come sei dimagrito 15 kg? Come hai fatto? Beh, tu sai che per motivi così di lavoro frequento molto la scienza medica, quindi ho avuto dei buoni consigli dai miei intervistati o dai miei consulenti. Cioè, hai fatto la dieta? Ho fatto la dieta e ho fatto sport, non corro con la radiolina, ma insomma nuoto. Beh, per la solita, per una cosa che si dice, spesso lo sport fa male, no? Uno dice fare. Io cerco di nuotare, non troppo, di fare un po' di dieta in vista dell'estate. Comunque, 15 kg in meno. Hai fatto la prova? Ti hai visto bene? Ti piaci? Guarda, ho ritirato fuori il costume di 3 o 4 anni fa. Addirittura? Sì, sì. E ti sta bene? Mi sta da Dio. Addirittura. Dove andrai a provarlo? Ma come sempre a Positano. Io sto sempre in giro per il mondo d'estate, mi fermo a Positano. Pietro, ha sentito? Sì, sì, fa bene, una brava persona, lo ammiro molto. Grazie Pietro, grazie. Lo seguo pure in TV. Per andare all'intervento... Sì, ecco appunto, è già tardi. Purtroppo nel nostro paese le decisioni le deve prendere sempre il meno adatto. In questo caso, sì, come per la giustizia, li sta prendendo Berlusconi, quello più indagato e condannato e cose varie. Però non mi dica banalità, Pietro, non mi dica banalità. No, è vero. Per quanto riguarda le comunicazioni, sì, dovrebbe decidere uno che all'inizio con le intercettazioni ci ha campato. Poi siccome è arrivato alla canna del gas, vabbè, sta cercando di mettere... Lei ha corso troppo, Pietro, mi passi sua moglie, vicino a lei, mi passi sua moglie. L'ultima cosa che voglio mi dire... Mi passi sua moglie, dov'è sua moglie? Qua. Me la passi un attimo. Signora, come si chiama lei? Martella. Ma davvero veramente avete fatto una decina di chilometri questa sera insieme? Sì, quale? Sì, ma lei condivide tutto quello che dice suo marito, sì? Berlusconi, le cose. Quasi tutto. Forse lui è un po' troppo estremista. Però, è un po' troppo estremista. Insomma, diciamo che. Ma è vero che non è vero che a suo marito non piace il conduttore della radio, il sottoscritto? Non è vero, mi dica la verità, non è vero. Una piccola critica, che le piccole critiche fanno comunque bene, no? Per migliorare. No, certo, va benissimo, ma non anche aspettare, no? Certo. La scuola. Senta signora, ma però ogni sera è lì collegato con noi, immagino. Sì, questo sì. Questo sì, anche se ci sono io, no? Sì. Quindi, anche se ci sono io. È una cosa che comunque interessa, no? Beh, certo.